11:12 sulle libere frequenze di Radio Blackout, prosegue la mattinata informativa e dopo qualche settimana di pausa torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo di Torino. E allora in questa giornata, con questo anche cambio di giorno, ci sposteremo d'ora in poi al mercoledì mattina con il solito orario. Il primo doveroso saluto va a Eddie, che insomma per un po' di tempo non potrà essere qui negli studi di Via Cecchi, ma siamo sicuri che sarà all'ascolto, quindi la salutiamo e salutiamo anche tutti i compagni e le compagne sottoposti a misure cautelari di vario tipo, che come sempre aspettiamo di rivedere liberi al più presto. Vi ricordiamo come sempre i contatti per scrivere nel corso della trasmissione: 011 249 5669, il numero del telefono fisso, mentre 346 667 3263, il numero per gli SMS. Allora, quest'oggi in studio una nuova formazione ai microfoni, quindi un saluto da parte mia, da Francesca. Un saluto da parte di Costanza. Un saluto da parte di Carla. E allora adesso, come sempre, vi lasciamo a un po' di musica, poi andiamo a presentarvi la puntata di quest'oggi. Adesso prenditi il tuo tempo e i tuoi 2 minuti d'odio, goditeli tutti e poi strozzati perché non sei sul podio. Brucia le pagine senza il tuo nome, punta il dito sul nemico e sfoga la tua frustrazione. Scegli un colpevole, la giostra è appena cominciata, la caccia aperta, questa è la voce registrata. No, giù al cospetto della nuova propaganda, scorda ogni domanda, un'unica risposta, qualunque essa sia. Nessun bisogno di pensare con ortodossia, solo un furore cieco, un pelo nero sopra il cuore, un nuovo credo da adorare, il nome del sacro terrore. Lampi nel cielo, sei sul canale zero, e mo la bestia ride da uno schermo mentre recita il Vangelo. Dacci oggi il nostro panico quotidiano e piano, liberaci da tutto ciò che è umano. Questo è canale zero, edizione speciale, qua tutto vero però niente è reale, ed è canale zero, la verità virtuale, ed è tutto normale, ed è tutto normale. Canale zero, edizione speciale, qua tutto vero però niente è reale, ed è canale zero, la verità virtuale, ed è tutto normale, ed è tutto normale. Lo specchio mostra gli episodi mentre credi sottovoce, sei quello che pianta e chi odio, sei quello sulla croce, la via più veloce se ascolti il lato oscuro, la bestia feroce nei volti del tuo futuro. Sono occhi nel buio che non trovano aperture, sono occhi nel buio e sono come due fessure, sono le tue paure, sono schegge affilate, nocche dure sotto armature spezzate. Non ve ne andate, restate per il finale, perché quando è finita comunque è finita male. È una vita che è uguale, è una vita che è uguale. Non state cambiando vita, state cambiando canale. Al mio segnale scatenate l'inferno, cantate se pensate sia soltanto uno schermo. C'è un occhio al suo interno, mi sta guardando l'anima, il sangue sul quaderno, adesso riempi un'altra pagina. E dopo immagina, già non sei capace, ci verserei una lacrima e nemmeno mi dispiace, lo so. Non è efficace, purtroppo è tutto vero, ti metto il cuore in pace, questo è canale zero. Canale zero, edizione speciale, qua è tutto vero però niente è reale, è canale zero, la verità virtuale, ed è tutto normale, ed è tutto normale. Canale zero, edizione speciale, qua è tutto vero però niente è reale, ed è canale zero, la verità virtuale, ed è tutto normale, ed è tutto normale. E allora andiamo brevemente a presentare quelle che saranno le dirette della puntata di quest'oggi di Parole Ribelli. Per voi ci sono un sacco di approfondimenti in programma. Cominceremo con una chiamata ai ragazzi e alle ragazze del Progetto Palestina, che ieri hanno fatto una conferenza al campus Luigi Einaudi. Insomma, una conferenza inserita nella loro campagna degli studenti contro il Technion. Dopo li andremo a sentire, ci spiegheranno un po' appunto com'è andata e come sono riusciti anche a conquistarsi l'aula, che come era già successo mesi fa gli era stata negata. E per quanto riguarda invece le scuole superiori, andremo a fare un collegamento con una studentessa del KSA per fare alcune valutazioni, un bilancio del ormai tradizionale boicottaggio delle prove Invalsi che si è svolto la scorsa settimana in diversi istituti in tutta Italia, quindi ci faremo raccontare un po' com'è andata e insomma andremo anche un po' a commentare quello che è il ruolo di queste prove. Passeremo poi a fare, insomma, a farci raccontare della giornata di sabato qua a Torino durante il Salone del Libro, quando appunto era presente Salvini a presentare il suo nuovo libro, se di libro insomma possiamo parlare, e appunto un ragazzo che era presente alla contestazione ci racconterà un po' com'è andata. E daremo poi aggiornamenti anche per quanto riguarda il contesto francese, la mobilitazione contro la loi Travail che prosegue ormai da più di due mesi. Già nello spazio informativo di questa mattina è stato fatto un collegamento con Martina, ma sappiamo che c'erano un po' di problemi tecnici, quindi insomma cercheremo di risentirla e di farci spiegare con calma come sta andando, visto che in questi giorni la situazione rimane decisamente effervescente. E poi in chiusura andremo a collegarci invece con Roma per presentare la giornata di mobilitazione che ci sarà questo fine settimana contro un'annunciata sfilata di Casa Pound, che troverà insomma la giusta e pronta risposta di chi insomma ribadisce ogni giorno che per questo tipo di personaggi spazio non c'è e non ci dovrà mai essere. Questo è più o meno quanto. Ovviamente insomma l'ordine delle dirette è passibile di modifiche in base alle disponibilità delle persone che andremo a sentire, però ora vi lasciamo con un po' di musica, poi iniziamo subito con le prime dirette. Sì, ricordiamo il numero se qualcuno volesse mettersi in contatto con la radio mentre siamo qua, 346-6673-263, e un po' di musica e poi ci siamo. Get the money, we ain't got the money, we ain't get the money. iniziamo subito sconvolgendovi la scaletta che vi abbiamo appena dato, perché ora parliamo di quello che è successo sabato al Salone del Libro. Infatti sabato c'era Matteo Salvini che firmava gli autografi e rispondeva alle domande dei suoi fan allo stand della Rizzoli, che ha deciso appunto di pubblicare il suo libro che si intitola Secondo Matteo. Insomma, c'è stata una contestazione e l'area era circondata da polizia. Ora sentiamo però Loris che ci può raccontare direttamente quello che è successo. Loris, ci senti? Sì. Ciao. Ciao. Ci vuoi raccontare com'è andata, insomma, sabato al Salone del Libro la contestazione? Certo. Buongiorno sì, a tutti e a tutti. Sabato eravamo lì al Salone del Libro, siamo entrati separatamente per contestare Salvini e fin da subito abbiamo notato che quella fiera era completamente militarizzata. La zona in cui Salvini avrebbe dovuto fare il suo buffo comizio era completamente circondata da Digos e carabinieri. E noi abbiamo assistito a una scenetta molto inquietante di una decina di suoi fan fegatati che l'unica cosa che sapevano urlare era Matteo, Matteo, Matteo. E subito dopo, appena la cosa si è calmata un po', abbiamo iniziato giustamente a urlargli che è un razzista, che i suoi messaggi di odio deve smetterla di diffonderli tra la gente, deve smetterla di proporre la guerra tra poveri. Al che siamo stati subitissimo cacciati fuori in malissimo modo da tutta la polizia e la Digos che era schierata lì, con anche abbastanza violenza, ed è questo è di nuovo uno dei tanti segni di come il dissenso venga represso violentemente e come sia impossibile esprimere la propria opinione davanti a degli elementi del genere. Senti, comunque la gente davanti a questa cosa ha avuto una risposta, cioè si è indignata, non sapeva neanche che ci fosse Salvini a presentare il suo libro. Sì, esattamente, tranne quei 10 sfegatati, tutte le persone attorno, anche le persone con cui abbiamo chiacchierato prima per capire un po' la cosa, non avevano la minima idea ci fosse Salvini. E tutti praticamente ci rispondevano: ah, ma c'è anche Salvini, insultandolo spesso in malo modo. E infatti quando siamo stati buttati fuori siamo stati circondati sia oltre che dalla Digos e dalla stampa, anche da un buon gruppo di solidari, che alcuni hanno anche iniziato a urlare insieme a noi o a farci complimenti vari. Lui davanti a questa cosa però ha fatto finta che non fosse successo niente, ha rilasciato delle dichiarazioni anche molto pesanti, vero? Ha fatto finta, insomma, che ci fossero solamente 2 persone ad averlo contestato e che attorno a queste 2 persone non ci fosse nessuno, invece lui fosse in un bagno di folla. Sì, decisamente, l'unica cosa che sa fare comunque il politicante, e quindi ha tentato di screditare la cosa facendo un discorso ad hominem, accusando me di essere tra gli unici 3 ragazzi, addirittura inviandomi un abbraccio, quando invece il dissenso era molto maggiore. Poi ha fatto anche un'altra dichiarazione abbastanza clamorosa, che ha ammesso praticamente di essere razzista e fascista, quando ho detto che se non gli dessero del razzista e del fascista ogni giorno non sarebbe neanche contento. È stata abbastanza significativa, secondo me. Già. Allora, grazie tantissime, Loris. Un saluto da tutto lo staff della radio. Un abbraccio, ci sentiamo presto. Grazie. Arrivederci. Ciao. Es necesario saber, sea hombre o mujer, que mucho de lo que vivimos viene desde el ayer. Es necesario romper con todas esas maldiciones que nos atan sin querer. Este mundo nos comprometió antes de nacer con un pacto antiguo que realizó algún individuo por poder. Hermanos, quiero decir con esto que en todo país donde su fundador realizó un pacto con un dios pagano,

io che ancora non ho ceduto. Ma quale io sono giù con i ribelli che colorano le strade senza l'uso dei pennelli. E non si può restare, non siamo il maestrale, non ci permettrai. Cazzo non siamo di quelli, sì. Ma quale io sono giù con i b-boy che ballano sul ring come Ali, Ali Bumaye. La guerra contro se stessi e contro i vostri re che si cambiano il conto contro se stessi. Questa cultura è testimone di una generazione che abbiura per natura il proprio nome, sì. Nati dentro una modernità senza identità dove nessuno è padrone. Manco di un'emozione, son fuggito al metadone, al mito della nazione, alle teorie di ogni fazione. Fuggito a ste bugie, ho capito l'azione dell'amicizia e la giustizia come prima unione fra le persone. La spinta alla conoscenza come prima scienza che raggira ogni scemenza. Sta cultura è una rincorsa, è una forza oscura punta assente in sua assente. Io non cresco, non riesco, è una semenza contro ogni tortura, ogni sentenza, contro la paura, verso ogni differenza, contro le vostre mura fatte di diffidenza. Ora è sempre resistenza contro ad ogni dittatura. Ma quale io sono più con i ribelli che colorano le strade senza l'uso dei pennelli. E non si può arrestare, non siamo il maestrale, non ci permettrai. Cazzo non siamo di quelli, sì. Ma quale io sono giù con i b-boy che ballano sul ring come Ali, Ali Bumaye. La guerra contro se stessi e contro i vostri re che si cambiano il conto contro se stessi. Ora che il rap è diventato pop, spazzatura credo ancora nell'hip hop. Sì, la mia cultura senza nucleo, senza scopo, nessuna copertura, sembra un gioco. Ma mi ha riempito il vuoto e non ho più paura. Più forte di qualsiasi sconvoltura, più importante di qualsiasi congettura, più potente di qualsiasi cura in natura. Ora sono più cosciente, la mia gente più matura. Su, tutta scura, pure questi principi, sti principini del rap ben vestiti, finti miti, son falliti, sì. Si sono venduti per due citi, durano quanto un contratto discografico, poi son falliti. Assorbiti dalle mode a colpi di frusta, assorbiti dalle idee dell'industria. Asserviti non fanno la cosa giusta, riporta i veri principi su sta terra, Zarathustra. Ma quale io sono giù con i ribelli che colorano le strade senza l'uso dei pennelli. E non si può arrestare, noi siamo il maestrale, non ci permettrai. Cazzo non siamo di quelli, sì. Ma quale io sono giù con i b-boy che ballano sul ring come Ali, Ali Bumaye. La guerra contro se stessi e contro i vostri re che si cambiano il conto contro se stessi. Undici e 36, ci passiamo a parlare di altro, ci spostiamo al campus Luigi Einaudi, dove nella giornata di ieri si teneva una conferenza con Joseph Halevi, una conferenza organizzata da gli studenti contro il Tecno, i ragazzi e le ragazze del progetto Palestina, che appunto avevano richiesto un'aula per parlare di Nakba, della catastrofe in arabo del 1948, a 68 anni di distanza. L'aula gli è stata negata proprio in una giornata in cui tra l'altro il campus era militarizzato, come spesso succede insomma da un po' di tempo a questa parte. Era militarizzato per la presenza di Caselli, che veniva a fare insomma una conferenza. E insomma vediamo come la libertà d'espressione sia in qualche modo sempre così sbandierata da parte del mondo accademico, ma e poi è molto facile che appunto succedano queste cose. Non è la prima volta che capitava ai ragazzi del progetto Palestina di non trovare spazio per poter fare le loro iniziative all'interno dell'università. Comunque adesso abbiamo in collegamento con noi Aloar, che ci spiegherà insomma brevemente com'è andata la giornata di ieri e più in generale la campagna che stanno portando avanti. Ciao, ci senti? Aloar, sì, ci sono. Allora, ieri Progetto Palestina, in collaborazione con Noi Restiamo, all'interno della campagna Studenti contro il Technion, ha provato ad organizzare una conferenza col professor Halevi. L'università ci ha negato l'aula, quindi abbiamo deciso di tenere comunque la conferenza ritrovandoci in meno alle 5, poi occupando e spostandoci in aula. La conferenza si è tenuta in ricordo della Nakba, che è la catastrofe palestinese, che, di cui ha parlato il professor Alevi, che è un docente dell'Università di Sydney, ma anche docente dell'International University College qui a Torino. La conferenza appunto parlava di Nakba, di 68 anni di Nakba, perché la Nakba in realtà non inizia e finisce il 15 maggio del 1948, quindi con la creazione dello Stato di Israele, ma in realtà inizia ancora prima e continua tuttora. Il professor Alevi è nato ad Haifa, quindi conosce bene l'ebraico, e tutta la sua analisi e le sue documentazioni erano analizzate in ebraico appunto. Quindi è stata una conferenza molto interessante, molto partecipata fortunatamente. Siamo riusciti ad occupare un'aula e a comunque continuare la conferenza, e tra l'altro però non è la prima volta che ci viene negata un'aula, perché sempre all'interno della campagna studentesca contro il Technion, l'assemblea di lancio di questa campagna appunto, l'aula all'inizio c'era stata concessa e all'ultimo negata, perché la controparte israeliana non era presente. Infatti noi all'epoca 2 o 3 mesi fa avevamo invitato Ronnie Barkan, e semplicemente l'università, sapendo che era ebreo, ha pensato che fosse la controparte. In realtà Ronnie Barkan è un attivista ebreo per il BDS, e appena hanno scoperto che era un attivista ebreo per il BDS ci hanno negato l'aula, perché non rappresentava la controparte. E anche in quel caso, con l'aiuto di molti studenti, abbiamo occupato un'aula e siamo riusciti comunque a portare avanti la conferenza. Studenti, appunto, stiamo parlando di studenti contro il Technion. Il professore Levi è un firmatario dell'appello Stop Technion. L'appello Stop Technion è partito da 2 professori italiani, che sono Enrico Bartolomei e Nicola Perugini, e che chiedono la cessazione delle collaborazioni tra le università italiane e il Politecnico di Haifa, appunto il Technion. In risposta a questo, noi studenti abbiamo deciso di lanciare la campagna Studenti contro il Technion, che si pone appunto l'obiettivo di, come l'appello, di far sì che le università cessino gli accordi con il Technion di Haifa, ma con l'aiuto degli studenti. L'appello o la campagna Studenti contro il Technion ha comunque raccolto molte approvazioni anche tra gli studenti, e quindi dopo la prima assemblea che c'è stata, abbiamo poi continueremo a fare eventi come quello appunto che abbiamo fatto ieri, solo che con il disapprovo dell'università, che non ci concede le aule appunto, ecco, quando sente parlare di... Non vi hanno dato nessuna motivazione ieri per... In realtà l'aula è stata richiesta per ben 2 volte, e tutte e 2 le volte ci è stata negata, perché eravamo poco chiari, oppure perché non è stata fatta in tempo, perché non erano disponibili le aule. Ma in realtà abbiamo visto che il campus era praticamente libero, di aule ce n'erano, e non era in realtà perché eravamo stati poco chiari, ma perché sappiamo che dietro c'è una ragione politica, se non vengono fatte queste conferenze pro-Palestina, come le chiamano loro, quando in realtà non sono conferenze pro-Palestina. Cioè noi raccontiamo un evento che è storicamente accaduto, e abbiamo un professore che ne discute, ne parla e analizza le sue documentazioni. Quindi la libertà di parola anche in questo caso viene un po' negata. Sì, che poi paradossalmente diciamo che questo giochetto da parte dell'università, o di insomma accampare scuse che in altri casi non vengono presentate, come quella della necessità di una controparte, oppure dall'altro appunto o di non rispondere o di far finta che non ci sia disponibilità di aule, finisce poi ogni volta per sollevare un caso che paradossalmente appunto poi finisce per dare meno male visibilità alla questione. Abbiamo visto anche ieri che poi la partecipazione al dibattito è stata molto buona, quindi Sì, fortunatamente è stata molto buona, ma in realtà il gioco della controparte è un po' una scusa, perché non credo che quando si parli di olocausto si porti un nazista come controparte, cioè non esiste. Noi in realtà il gioco della controparte è un po' una scusa, è stata utilizzata come scusa per l'assemblea. Quello non ci sembrava il caso, l'assemblea non era dedicata a una discussione con una controparte. Magari un giorno organizzeremo una discussione, un dibattito con la controparte, anzi sarà molto interessante, però non era quello il nostro obiettivo, non lo è stato fino ad adesso, quindi non credo che sia una scusa ben utilizzabile quella della controparte. Certo, ma invece senti, allora abbiamo visto insomma che si sono sollevate alcune polemiche anche rispetto a un'iniziativa che avete fatto in rettorato. All'iniziativa che abbiamo fatto? Sì, in realtà l'iniziativa non era stata fatta da noi. L'iniziativa è se a quella che ti riferisci, che c'è stata lunedì, era un'iniziativa che un convegno, un seminario, diciamo, che aveva come professori partecipanti Diana Carminati, Enrico Bartolomei, appunto, che è uno degli universitari che ha scritto l'appello Stop Technion. Anche lì l'aula era stata negata, credo, all'inizio, fatto sta che poi il rettore è intervenuto difendendo la libertà di parola e concedendo un'aula nel rettorato appunto a Diana Carminati, che è stata anche definita carnefice di Israele. Fatto sta che l'aula è stata concessa, però anche lì l'aula viene concessa a professori dopo comunque discussioni, casini, eccetera eccetera. Invece a noi studenti che richiediamo un'aula ci viene sempre negata, anche se potremmo parlare delle stesse identiche cose, ma ci viene comunque negata, perché fin quando si è professori accademici forse si riesce ancora ad ottenere un'aula, ma quando si è studenti con molta più difficoltà. Certo. Ok, senti, ti chiedo ancora quali sono le prossime iniziative, quali sono i prossimi momenti appunto che pensate di organizzare. E ok, poi ti noi sì, in realtà speriamo che non finiscano qui gli eventi della campagna studentesca contro il Technion, perché gli accordi non sono ancora cessati, quindi continueremo a fare i nostri eventi, le nostre conferenze, i nostri dibattiti, presidi, finché non riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo, quindi anche il prossimo anno, se non quest'anno, continueremo. Riguardo ai altri eventi e conferenze, purtroppo adesso non so dirti nulla, perché non siamo ancora riusciti ad organizzarne altre, o comunque crediamo che questa sia l'ultima conferenza per questo semestre. Gli eventi comunque continueranno, se non dentro, al di fuori dell'università, quindi se volete essere interessati vi invito a seguire le nostre pagine Facebook Progetto Palestina e Studenti contro il Technion. D'accordo, allora noi rilanciamo sicuramente il tuo invito e ci risentiremo da questi microfoni sicuramente per tutte le altre volte insomma che sarà il caso. Ti ringraziamo moltissimo. Perfetto, e grazie a voi. Giornata. Grazie mille anche a voi, ciao. Gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out. But a punk.

Allora, continuiamo la nostra puntata. Il 12 maggio c'è stato il boicottaggio dei test falsi che si sono tenuti in insomma tutte le scuole superiori d'Italia, con delle classi campione che sono state sottoposte a questi test. Il boicottaggio è stato insomma molto partecipato, perché comunque insomma le prove infalsi sono un metodo di valutazione che prende gli studenti, gli dà un numero e insomma pretende che ragionino a crocette, che il nostro studio, che la nostra formazione insomma sia così a pacchetti. Ma sicuramente ce lo sa raccontare meglio Letizia, del collettivo del KSA. Siamo in diretta con Letizia, ci senti? Sì, vi sento, eccomi. Ok, ci puoi raccontare la giornata di boicottaggio? Ok, certamente. Allora, faccio una piccola sola introduzione di cosa sono giusto le invalsi, per chi non lo sapesse, che sono dei test appunto che vengono somministrati ogni anno a tutti gli studenti. Io personalmente ho boicottato le invalsi per diversi motivi quest'anno, ma posso portare l'esempio che non tengono molto conto del contesto sociale ed economico di ogni singolo studente. E questo nelle scuole provoca appunto una competizione tra esse, infatti che hanno scuole di serie A e di serie B. Infatti alla scuola che appunto riceve un punteggio maggiore, quella di serie A, vengono dati dei soldi, ma non è detto che questa scuola ne abbia bisogno, perché magari è messa tutta a posto dal punto di vista edilistico, e scuole invece con punteggio inferiore invece avrebbero bisogno di essere ristrutturate. Il preside quest'anno nei boicottaggi, come un po' sempre, i dirigenti scolastici non hanno preso la nostra posizione, anzi come al solito si sono messi contro gli studenti. Dal punto di vista mio, ma anche di altri miei amici, il preside ormai viene sempre di più visto come il capo della scuola. Ormai la scuola sta diventando sempre di più come un'azienda, come in un'azienda c'è un capo nella scuola, c'è un capo che è il dirigente scolastico. I dirigenti scolastici quest'anno si sono molto messi contro di noi, infatti in parecchie scuole hanno convocato consigli straordinari con i genitori per sanzionare gli studenti. Addirittura c'è il preside del liceo a Caserta, è uscito da scuola e invitando gli studenti ad entrare a fare il test, ma gli studenti insieme agli insegnanti l'hanno contestato e si sono rifiutati di entrare. Quindi diciamo che ormai anche i professori, per quanto riguarda gli invalsi, si rifiutano sia di correggerle che di consegnarle. Infatti quest'anno molti non si sono neanche presentati a scuola. Quindi c'è stato insomma un grosso boicottaggio sia da parte degli studenti sia anche da parte degli insegnanti. Sì, anche gli insegnanti quest'anno sono stati molto partecipi nei boicottaggi, poi come sempre sono quegli insegnanti che invece sono convinti che sia un metodo di valutazione positivo. Per me invece no, perché non si può valutare uno studente in base a delle crocette su un test, ma bisognerebbe sviluppare in esso appunto un senso critico e cercare anche di sviluppare la personalità di uno studente. Senti, ma gli insegnanti vi preparano a questi test, insomma saltano anche programma per prepararvi a questi test, oppure quando arrivano insomma ve li lasciano compilare direttamente così? Come si pongono davanti a questo? Ci sono, come dire, quasi due parti di professori, cioè la parte che appunto, come ho detto prima, non li consegna neanche agli studenti, che quindi ci appoggia completamente e quindi non ci prepara, ma ci sono altri studenti invece convinti che questi test funzionino e infatti ci fanno anche comprare addirittura dei libri per prepararci alle invalsi, che appunto poi non diventa più neanche valutare una scuola, perché se fai comprare a uno studente un libro per prepararsi per questa verifica perde completamente di significato questo test. Quindi ci sono dei professori che ci fanno proprio anche rimanere indietro col programma, perché ci fanno comprare appunto questi libri da compilare. E quindi gli studenti delle scuole comunque condividevano le motivazioni di boicottaggio. Cosa avete detto per convincere questi studenti a, insomma, a pasticciare, a scrivere, a coprire il codice? Come avete fatto a convincere gli studenti a boicottare gli invalsi? Come primo punto abbiamo organizzato appunto a Torino, per quanto riguarda Torino, abbiamo organizzato un'assemblea pubblica per parlarne, appunto, e c'è stata una grande discussione. Abbiamo persone che mettevano sul piatto dei dubbi e noi cercavamo di chiarirli, ma ormai comunque la contestazione degli invalsi per quanto riguarda gli studenti a Torino è molto alta, non c'è quasi più bisogno di chiarimenti, perché da anni che continuano a riproporcele, ogni anno noi le boicottiamo. Infatti questo boicottaggio ogni anno sale sempre di più, gente che non partecipa alle invalsi. Quindi abbiamo fatto così. Poi per quanto riguarda Torino, appunto, abbiamo boicottato dall'interno senza fare cortei, ma parecchie scuole hanno appeso striscioni, come il Giulia e il Pastoni. Altri hanno praticamente tutti hanno attaccato gli adesivi sulle prove invalsi dove c'è il codice, che il codice in realtà dovrebbe essere anonimo per non sapere di chi è quel foglietto che compila il codice da cui si può risalire ovviamente al numero di registro da cui si risale al nome. Quindi alla fine i test non sono annuari, non sono anonimi. Renzi cercherà di inserirlo anche nelle prove d'esame? Sì, cioè, in realtà questa volta è da anni che si continua a vociferare che nell'esame di Stato di quinta superiore vogliono aggiungere allo Stato, cioè vogliono aggiungerlo all'esame. Infatti quest'anno però con la riforma della buona scuola, questa volta sembra che pian piano si stia confermando sempre di più, oltre che già da anni le prove invalsi sono diventate nell'esame di terza media ufficiali e vengono valutate. Va bene, se ci vuoi dire qualcos'altro ti lascio ancora parlare, altrimenti possiamo anche salutarci perché sei stata bravissima. Vuoi dirci qualcos'altro? Ma vorrei solo sottolineare il fatto che ormai la scuola, almeno per come la vedo io proprio, è molto impostata sul farci diventare delle macchine, nel senso che per la scuola noi siamo i dipendenti che sono sottomessi appunto al dirigente scolastico, che è il nostro datore di lavoro, in cui dobbiamo apprendere, ma non apprendiamo in modo critico rielaborando i dati, ma apprendiamo in modo proprio a memoria, e quindi noi produciamo, e per valutare e per vedere se produciamo abbastanza, un po' brutto detto così, ma è proprio questo il concetto, ci vengono somministrati questi test che sono gli invalsi, e se è positivo, meno male, ci danno dei soldi, se no, no, e veniamo considerati degli ignoranti. Quindi io sottolineo questo, poi anche quando ci dicono che la nostra scuola è lavoro, ma la scuola non dovrebbe essere intesa come il lavoro, che ti devi alzare, devi obbedire, devi stare zitto, non è questo. La scuola, soprattutto alle superiori, dovrebbe sviluppare il senso critico e la personalità di ogni studente. Quindi io spero che la nostra voce arrivi a tutti gli studenti e che ci sia maggiore presa di coscienza. Grazie Letizia, invitiamo tutti gli studenti anche per i prossimi anni a boicottare i test, a tenersi aggiornati sulle vicende degli invalsi che stanno cercando di prendere posto nella nostra valutazione. Un saluto da tutto lo staff di Radio Blackout di Parole Ribelli. Grazie ciao. A voi, ciao ciao. Gonna find you and make you want me.

drift across the seas and the oceans. A permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the... Bene, come annunciato prima, andiamo adesso in diretta da Roma. Roma, una città che questo weekend vedrà in piazza il corteo Casa Pound Not Welcome. Parliamo della manifestazione del 21 con Michele di Progetto Dégage. Ciao Michele. Ciao a tutti e tutte. Dunque, il 21, una manifestazione che nasce un po' dall'esigenza di opporsi allo svolgimento del corteo che ha indetto Casa Pound. Quella di Casa Pound, una manifestazione con delle parole d'ordine chiaramente razziste, di odio, di intolleranza, e che si colloca all'interno della campagna elettorale per le amministrative. Come si può leggere anche dal network, quella che invece volete lanciare voi è una manifestazione che sarà attraversata da molti soggetti che si rivolgono a tutti quanti gli antirazzisti, gli antifascisti e gli antisessisti, e a tutti coloro che non vogliono muri o frontiere, a bloccare chi fugge dalla fame e dalla guerra e che non riconoscono l'importanza oggi più che mai di costruire una risposta ai tentativi di infiltrazione di fascisti all'interno dei nostri quartieri e dei nostri luoghi di studio e di lavoro. Quindi Michele, ti chiederemmo di raccontarci un po' della costruzione di questa giornata. Avete fatto delle assemblee di avvicinamento e lascerei quindi la parola a te. Ok, ci sta questa data del 21 maggio, che è una data non solo italiana, ma è una data dove diverse realtà fasciste, razziste, naziste in giro per l'Europa hanno deciso di convergere. La data, insomma, è l'anniversario della morte di questo Dominique Venner, un personaggio bieco che i fascisti in giro per l'Europa agitano come simbolo della loro ideologia. Ma a parte questo personaggio, di per sé la data è soltanto un'occasione per queste formazioni di estrema destra per ribadire un po' quello che abbiamo visto. Abbiamo visto, insomma, come reazione populista e come speculazione sulla testa e sulla pelle dei migranti che cercano una vita migliore, che scappano da guerre. L'abbiamo vista da un lato dalle destre, questa speculazione con la voce preponderante di Salvini, che insomma ha parlato sono anni che ormai minaccia e parla di chiudere i centri per i rifugiati, e questi sono i maggiori problemi che ci sono nelle città, e di agitare questo spauracchio appunto del migrante, legandolo anche al discorso del terrorismo. Allo stesso modo le formazioni di estrema destra, e da questo punto di vista Casa Pound su tutte, negli ultimi mesi, almeno a Roma, ma vedendo su internet e parlando con i compagni anche del resto d'Italia, a Roma in particolare si fa vedere in ogni situazione in cui ci siano di mezzo migranti, rom, in cui ci siano situazioni di violenze, di difficoltà di convivenza, di territori e quartieri di per sé difficili da vivere anche per gli italiani che ci vivono, e andare lì e farsi vedere per andare verso una campagna elettorale che li vede candidati chiaramente con un candidato sindaco che è Di Stefano, e con in diversi municipi dove ci sono però realtà di compagni e realtà attive che anche sul tema del razzismo e dei migranti portano avanti quotidianamente la lotta per la casa fino a tante altre battaglie. Ma c'è da ricordare sempre che se a destra c'è questo tipo di speculazione, lo stesso gioco lo fa tra virgolette la sinistra assistenziale, come il PD, che su questo tema di migranti comunque ha provato a rifarsi una faccia parlando insomma di un'Europa che comunque ha come idea quella di accogliere, anche se abbiamo visto qua alle frontiere quello che succede. Però questo per ribadire che quello che dice Casa Pound, quello che dicono queste realtà in questo momento in Europa, appunto, è una battaglia contro l'accoglienza, contro la solidarietà verso chi scappa dalle guerre. Ecco, anche sicuramente a Roma, che abbiamo conosciuto bene come funziona l'accoglienza con lo scandalo di Mafia Capitale, anche i movimenti chiaramente sono contro la speculazione sulla pelle dei migranti e sulla nostra pelle con i meccanismi dell'accoglienza, ma ripudiano e combattono quei discorsi che vedono appunto il migrante, il rom come i problemi oggi nelle nostre città, appunto la campagna elettorale di Casa Pound a Roma come in tutta Italia è difendere Roma, difendere le varie città come appunto se ci fosse se questo fosse il nostro problema. Noi sappiamo che i problemi sono altri, in primis il nostro problema è la presenza di queste di questi personaggi per le strade della nostra città. Purtroppo a Roma la situazione è insomma è complicata, abbiamo visto ad esempio quello che è successo questo sabato nel quadrante del Prenestino, dove Casa Pound era andata a provocare di fronte all'iniziativa di un comitato, del comitato No Cemento a Roma Est, un comitato contro la cementificazione che ha fatto per mesi una battaglia contro la costruzione della Lidl, un banchetto elettorale con insomma militanti di Casa Pound che andavano lì apposta, insomma, chiaramente per cercare di provocare, e insomma questo è stato un caso, però c'è stata una reazione molto forte del quartiere che nonostante insomma la presenza lì dei fascisti ha voluto cacciarli con forza, e questo è sicuramente un buon segnale, ma purtroppo chiaramente il problema non si è risolto, nel senso che a Roma c'è indetta questa manifestazione che in contemporanea con la manifestazione a Madrid, a Budapest e ad Atene di altri gruppi di estrema destra. Ad Atene il corteo è chiamato da Alba Dorada, quindi per far capire quello che è già chiaro da anni, quali sono le relazioni che hanno questi soggetti che hanno tagliato il rapporto con Salvini, con la Lega in questo momento, che a Roma vede un altro candidato, ma che comunque hanno tenuto invece vivi i rapporti con le formazioni più propriamente neofasciste come Casa Pound. Da questo punto di vista la città di Roma ha da subito messo in campo una risposta forte, una risposta che ha visto un appello di tutte le realtà di movimento, delle reti antirazziste e antifasciste, che hanno indetto un'assemblea pubblica alla Sapienza per venerdì scorso, un'assemblea che ha visto centinaia di persone parteciparvi, e il lancio appunto di una piazza complicata, che è la piazza dell'Esquilino, che insomma gli ascoltatori e le ascoltatrici probabilmente non sono di Roma, quindi capiscono magari non troppo bene la situazione, ma è una piazza molto vicina al concentramento che si è dato Casa Pound, che è Piazza Vittorio. Ricordiamo che è una delle piazze più multietniche di Roma, che però allo stesso modo purtroppo ha poche centinaia di metri la sede di Casa Pound. E questa quindi è la piazza che provocatoriamente chiaramente i fascisti hanno scelto per provare ad attraversare le strade di Roma, ma gli antifascisti e gli antifascisti hanno chiamato questa piazza che si frapporrebbe all'ideale percorso di questa manifestazione di Casa Pound. Al momento quindi c'è una presa di parola da un lato delle realtà più di movimento, dall'altro lato negli ultimi giorni si è alimentato un dibattito che va oltre le realtà di compagni sulla presenza di una manifestazione del genere a Roma, che passa da una lettera dell'AMPI a prese di posizione di esponenti di SEL e del Partito Democratico con un'interrogazione parlamentare. Leggiamo sulle pagine dei giornali oggi come stia destando preoccupazione, e meno male, la presenza di questi fascisti in città, anche perché chiaramente è chiaro che per noi è un problema molto grosso, e chiaramente con coraggio si proverà a stare in piazza, a stare per le strade di Roma nel quadrante dove si muoverà Casa Pound, per impedirgli la possibilità di girare per le strade di Roma. Staremo un po' a vedere, per ora insomma a Roma poi ci sono altri appuntamenti fissati per i prossimi giorni, più territoriali, per dare risposte anche a quello che quotidianamente questi soggetti stanno facendo insieme a altri esponenti di estrema destra, perché a Roma purtroppo ogni giorno Salvini, la Meloni, Casa Pound vanno con le telecamere appresso, fuori a un campo rom, fuori a un centro d'accoglienza, a farsi fotografare, a farsi riprendere mentre sciacallano su queste situazioni, e quindi quotidianamente nei territori c'è da costruire una risposta che chiaramente sta facendo crescere la rabbia e l'incazzatura verso questa gente. Soltanto oggi appunto Salvini è di fronte a un altro campo rom insieme alla Meloni. È una notizia che è girata poco, ma ieri notte una decina di militanti di Casa Pound hanno aggredito due compagni, neanche militanti, insomma, due persone che girano negli spazi occupati, che giravano là nel quartiere del Prenestino, vicino a dove sono venuti i fatti di sabato scorso, aggredendoli e picchiandoli per strada soltanto perché erano vicini a un manifesto di Casa Pound strappato.

12.33 sulle libere frequenze di Radio Blackout, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Allora, siccome i minuti a nostra disposizione per questa settimana stanno per concludersi, rimandiamo la diretta da Parigi che avevamo in programma, che vi avevamo preannunciato a inizio puntata. Vi do qualche aggiornamento al volo, visto che abbiamo sentito poco fa Martina. Gli appuntamenti per quest'oggi erano due: uno, una mobilitazione contro l'impunità delle violenze di polizia per questa mattina alle 11, di cui appunto Martina aveva già parlato nella diretta stamattina prima che si interrompesse, e invece poi da mezzogiorno in poi l'appello era a ritrovarsi a Place de la République, dove per quest'oggi il sindacato di polizia, in maniera decisamente provocatoria, aveva lanciato uno sciopero, appunto un raduno di poliziotti in una sorta di contromanifestazione, appunto una provocazione belle buona attorno alla quale si stanno radunando in questi minuti diversi manifestanti, a quanto leggiamo anche dal sito di Paris Lut, che sta seguendo la diretta. La situazione è già abbastanza tesa, nel senso che l'accesso alla piazza è completamente bloccato, ci sono camionette schierate ovunque, e la polizia sta iniziando a mettersi appunto in tenuta antisommossa in questa situazione un po' paradossale, in cui c'è la polizia che divide i manifestanti, i poliziotti, dai manifestanti che li stanno contestando. Quindi questo è un po' il quadro, però per ora, da quanto ci diceva appunto Martina, non ci sono stati momenti particolari, quindi ci riserviamo piuttosto per la puntata della prossima settimana di fare una diretta un po' più corposa su lo stato dell'arte della mobilitazione contro la legge del lavoro. Yo, i miei ricordi annebbiati affogano in menti, naufraghi persi ammarati in un mare di gente. Sai, questa roba mena forte sulle tempie. Gli ho chiesto di svegliarmi se m'assopiscono e niente, niente che vada bene. Mentono come iene ste merde, le tv accese e le anime spenti, sempre a darti contro se sai essere cosciente. Sanno che punti in alto se nuoti controcorrente. Chiedono chi sono, io sono un testardo, un nato buono cresciuto da bastardo. Vogliono che affondo, ho imparato a ridargli tanto. Affondo ma con tanti bastardi che sto affogando. Perso fra i miei spazi, Dio, sono stanco. Questo mare uccide sempre chiunque punta all'arco. Passo le colonne d'Ercole, sarà un'iperbole. Augurami buon viaggio. Never mind, never mind, fottitene corri e vai, che a questa gente cambia niente se tu non ci stai. Never mind, never mind, fottitene, vai, che tanto non importa quanto lotterai. Never mind, never mind, fottitene corri e vai, che a questa gente cambia niente se tu non ci stai. Never mind, never mind, fottitene, vai, che tanto non importa quanto lotterai. Mezzo sangue nella faida, musica intifada, fammi da bastone mentre arranco sulla strada. E non è mai sterrato un macete fatto di parole, tagli i tuoi giudizi e le tue morde. Le mie strade sono sempre vuote, mando le ruote a 180 ma senza tragitto. Ho la visiera storta ma rigato dritto. Ho fatto due scuole, sopra i banchi e sotto le mie suole. Grazie ad una so parlare, grazie all'altra stare zitto. E mai, dico mai finto, se le colline c'hanno gli occhi immagina le strade. Dove mai spinto, sono un animale estinto da un bel pezzo. Diverso dal resto, non punta all'ottimo ma sempre al distinto. Vivo nel modo più complesso, l'universo verso l'uno e il resto può farsi fottere, tu stanne certo. Vivo nel modo più complesso, l'universo verso l'uno e il resto non conta un cazzo come chi ti ha perso. Non conta un cazzo come chi ti ha perso. Come chi t'ha perso. Never mind, never mind, fottitene corri e vai, che a questa gente cambia niente se tu non ci stai. Never mind, never mind, fottitene, vai, che tanto non importa quanto lotterai. Never mind, never mind, fottitene corri e vai, che a questa gente cambia niente se tu non ci stai. Never mind, never mind, fottitene, vai, che tanto non importa quanto lotterai.

Allora 12:43, ci prepariamo a salutarvi e dopo che vi abbiamo ricordato l'appuntamento di domani sotto casa di Mattia, vi preannunciamo già che la prossima settimana ci sarà poi un altro evento musicale sempre all'interno della campagna Libertà di studiare. Vi abbiamo dato un piccolo assaggio musicale adesso con Murubuto, ma appunto nella prossima puntata andremo a presentarvi meglio l'appuntamento. E allora prima di salutarvi vogliamo mandare un abbraccio a tutti i nostri compagni e compagne ai domiciliari oppure esiliati dalla loro città a Torino, quindi un saluto a Mattia, Silvestro, a Diego, Umberto, a Forgi, Simone, Luca, a Valeria, a Daniele, a Eddie, a Cecca, Damiano e a Jacopo. Varanda bianca, finché non vide i banchi di ghiaccio galleggiare alla deriva della Nuova Zelanda, per poi sparire nell'aereo, vide spuntare nuove isole fra le mattine, sotto la spinta delle eruzioni vulcaniche sottomarine, ascese nell'azzurro cobalto del mare di Polinesia, la distesa d'acqua screziata di duracciaio ed ardesia, poi fra i salti dei branchi di pesci volanti a nuove mete, sopra albatri con ali ampie fino a tre tese, ha visto il continente mentre la luna cresceva, vide i pescatori di marlin andare a largo anche sera sera. Un suono interruppe il suo sguardo verso la costa, era voce della guardia delle otto che apriva la porta, fingeva una tazza sporca colma di sbobba, l'unico sbuffo d'aria in una giornata di tanto e penombra. Jay si destò, rivide i muri della cella in cemento, lui detenuto recluso in isolamento da tempo, ma già chiudeva gli occhi e dopo un solo momento salpava verso nuovi lidi sospinto da un vento fresco ed eterno. Dimmi, dimmi tu se c'ero, no, io non distingo falso vero, ma in questi giorni i miei sogni van su, io fuggo tra i blu, diversi ma blu. Dimmi, dimmi tu che passa, ma... Allora alle 12:45 vi salutiamo, un saluto dalla crew tutta al femminile di Parole Ribelli, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, ci sentiamo la prossima settimana. Appuntamento quindi sempre mercoledì dalle 10:45 alle 12:45, nel frattempo seguiteci sulla pagina Facebook di Parole Ribelli, a breve poi caricheremo anche i podcast della puntata. Ciao a tutti! Ciao! Ciao.